Effetto Notte. Le notizie in 60 minuti. Di Roberta Giordano. Io credo che se noi saremo bravi a spiegare le nostre ragioni, otterremo un consenso. Ma il voto sulla persona non c'entra niente. Certo, io a differenza degli altri, se perdo, lo dico e vado a casa. Così dice Renzi, ritorna di nuovo, cari ascoltatrici, cari ascoltatori, sul referendum superato, diciamo, quello delle trivelle, già pensa a quello di ottobre, in realtà è quello che gli sta più a cuore. Qualcuno, dicevamo con un commentatore politico anche nelle settimane scorse, che forse si è pentito da tempo di aver messo un po' il proprio nome sul referendum di ottobre, la riforma costituzionale, il referendum costituzionale, però ha ribadito, l'ho dovuto ribadire questa sera al TG1, che se andasse male quel referendum andrebbe a casa. Bisognerà vedere poi se dovesse mantenere, però è sicuro di sé, evidentemente un po' nervoso ugualmente in questi giorni, e potrebbe essere, insomma, un piatto ghiotto per le opposizioni questa sua, questo ritornare di nuovo a confermare che se andasse a male quel referendum lui ne trarrebbe le conseguenze. Cari ascoltatrici, cari ascoltatori, si ricomincia la settimana molto intensa, perché parleremo del referendum, quello che è fallito, insomma, hanno perso i sì, ma c'è già un ricorso, ne parleremo tra poco. Poi questo era appunto un accenno al referendum di ottobre che ha fatto Renzi ritornando su se stesso, e poi parleremo di molte altre cose. Questo misterioso naufragio, nel senso che c'è un giallo su un naufragio di cui l'Egitto ha parlato da diverse ore, dove sarebbero morte 400 persone, poi la Somalia ha detto che si tratterebbe di 200, però ancora non si hanno conferme, così come non si ha una conferma definitiva di questo attentato che c'è stato a Gerusalemme, un pullman che però era semivuoto, per questo non si capisce se effettivamente possa essere stato un attentato, c'era l'autista e forse 2-3 persone sopra. E poi invece, per alleggerirci, a un certo punto parleremo anche di cinema, dei Davide Donatello, che sono gli Oscar del cinema italiano, si assegnano stasera, quindi ci collegheremo direttamente con Roma per sapere quali sono i risultati. A voi che domanda sottoporvi questa sera? Di Maio intanto è tornato a dire al TG4 che se proprio lo dovessero votare lui non si tirerebbe indietro come candidato premier, quindi si sta delineando praticamente un po' la figura, l'identikit di quello che sarà il leader del Movimento 5 Stelle. Era già nell'area da parecchio tempo, sembra che, insomma, si consolidi questa ipotesi. Ha detto i cittadini non cercano un uomo solo al comando, ma premieranno i partiti che promuovono la democrazia partecipata, quella che era un po' nell'idea di Casaleggio. Come commentereste questa dichiarazione di Di Maio? I cittadini non cercano un uomo solo al comando, premieranno i partiti che promuovono la democrazia partecipata. Potete commentare partecipando naturalmente sia alla pagina Facebook di Effetto Notte, che è sempre lì per voi giorno e notte, oppure con gli sms e WhatsApp al 349-238-6666, 349-238-6666. Come al solito, tra poco vi riassumo la giornata. Voi avvisate sempre amici, parenti, conoscenti, amori, naturalmente, che c'è Effetto Notte, e di ascoltarlo, di non perdere neanche un istante. Sapete che lo ascoltano un po' a tutte le latitudini. Allora partiamo. Medio Oriente torna la violenza, Gerusalemme esplosione su un bus di linea, il sindaco dice è stata una bomba. Immigrazione, da Bruxelles primo sì al Migration Compact, ma è braccio di ferro tra Roma e Berlino. Nel Mediterraneo forse 200 le vittime un anno dopo la strage di Lampedusa. Ecuador sale a 350 il bilancio provvisorio dei morti del terremoto che ha colpito sabato il paese latinoamericano. Il referendum sulle trivelle, dopo il mancato raggiungimento del quorum, i comitati per il sì non si arrendono, concessioni già illegittime, dicono domani al Senato. Intanto si vota la sfiducia al governo. Brasile, la Camera approva l'impeachment per la presidente Rousseff. Il governo ammette la sconfitta e annuncia battaglia al Senato. Salerno, Reggio Calabria, una galleria sotto sequestro per danni strutturali sull'autostrada dei lavori infiniti. Cinema stasera, i Davide di Donatello, gli Oscar del cinema italiano, attesa per Lo chiamavano Gig Robot di Marinetti e Non essere cattivo di Caligari. MotoGP e Jorge Lorenzo con Ducati nel 2017-2018. Partiamo quindi dal Medio Oriente, dalla violenza che sembra tornare a Gerusalemme. C'è stata oggi, vi dicevo, questa esplosione su un bus. Lo scoppio è avvenuto su un mezzo di linea senza passeggeri, coinvolto dalle fiamme un altro pullman. Il sindaco della città parla di un'esplosione che ha coinvolto appunto due autobus ed è stata provocata da un ordigno piazzato nel vano motore. Tra i 15 feriti ce ne sono due gravi. E quindi per gli israeliani sono tornate queste immagini, questa angoscia dei suoni, della paura della seconda intifada, quando i kamikaze palestinesi colpivano nella città. La polizia ha subito parlato di attentato terroristico, ma chiedo a Ugo Tramballi, commentatore del Sole 24 Ore. Ciao Ugo, e cosa ti sembra che di nuovo ci sia una recrudescenza di questo tipo di violenza? Perché poi fino a qualche tempo fa c'erano gli accoltellamenti, non è che lì ci sia mai particolare tranquillità, no? Però era da un po' che non c'erano questi attentati con le esplosioni. Sì, era da un po' perché c'è il muro che, da un lato col muro gli israeliani hanno rubato l'altra terra ai palestinesi, ma dall'altro hanno nettamente bloccato i kamikaze che invece durante la seconda intifada entravano facilmente dentro Israele. Avendo visto con i miei occhi quegli anni autobus sventrati, corpi dilaniati, l'attentato di oggi mi sembra un attentato per fortuna estremamente minore, siamo assolutamente lontani da quella realtà di allora. E mi sembra anche che non sia una storia, anche se Bibi Netanyahu ha già cominciato, come del resto faceva anche prima di questi attentati, ad assimilare la rivolta palestinese, anche il piccolo terrorismo di cabotaggio, come è stato quello della rivolta dei coltelli, al grande terrorismo dell'ISIS, eccetera. In realtà è un terrorismo autoctono, un terrorismo che nasce dalla questione israelo-palestinese, non c'entra con l'ISIS, con tutto il resto, nasce dall'occupazione che fra un paio d'anni celebrerà i suoi 50 anni dei territori palestinesi. È vero che c'è un aumento del terrorismo, dell'estremismo religioso, dell'estremismo islamico anche fra i palestinesi. L'autorità palestinese non governa, non ha capacità, Abu Mazen è un leader oramai bolso, incapace di dare delle risposte. E quindi c'è soprattutto nei giovani, sfortunatamente, un avvicinamento all'estremismo religioso, però non c'è alcun legame con l'ISIS, è un terrorismo disperato e autoctono. Grazie Ugo Tramballi, ciao Ugo. A presto. Parliamo di immigrazione, vi dicevo, perché non c'è ancora nessuna conferma della notizia sul naufragio nel Mediterraneo che avrebbe portato a 400 vittime. Dall'Egitto è arrivata questa mattina questa notizia, poi adesso invece dall'autorità somale si parla di 200 dispersi, da loro c'è questo annuncio di 200 dispersi, le ricerche sono ancora in corso, non ci sono però conferme ufficiali e ricordo che tra l'altro esattamente un anno fa in 800 morirono, vi ricordate, al largo di Lampedusa, la peggiore tragedia del Mediterraneo. Poi cercheremo di capire, insomma, se sono notizie confermate oppure no. Intanto l'Europa discute di un nuovo piano per fermare le stragi di migranti. Questa volta diretto proprio a chi arriva dall'Africa. L'Italia ha presentato oggi il suo patto per l'immigrazione, il suo piano. È arrivato un primo sì da Bruxelles, ma in corso c'è, tanto per cambiare, questo ennesimo braccio di ferro sull'asse Roma-Berlino. Un grande benvenuto alla proposta italiana relativa al Migration Compact arriva dalla Commissione europea attraverso le parole del suo portavoce, il greco Margaritis Kinas. Lavoreremo a stretto contatto con Matteo Renzi, dice, mentre nelle stesse ore il pacchetto di misure proposto da Roma viene bocciato dalla Germania. Il governo tedesco è contrario agli eurobond per combattere la crisi migratoria, fa sapere il portavoce Steffen Seibert, perché Berlino non vede alcuna base per un finanziamento comune dei debiti per le spese sostenute dagli Stati membri. L'esecutivo tedesco propende invece per altre misure, fra le quali una tassa sulla benzina, di cui, fanno sapere fonti europee, il ministro delle finanze tedesco Schäuble ha già parlato col presidente Juncker. E per discutere anche del Migration Compact, nel giorno in cui si registra l'ennesima tragedia nel Mediterraneo, i ministri degli esteri dell'Unione si incontrano a Lussemburgo. Così, all'arrivo al summit, il nostro ministro degli esteri Gentiloni. L'idea è quella di moltiplicare gli impegni, gli investimenti nei paesi africani e in cambio di coinvolgere i paesi africani in un'attività per ridurre i flussi migratori. Intanto i dati Frontex confermano che con i 9.600 migranti arrivati a marzo sulle coste italiane attraversando il Mediterraneo centrale, gli arrivi in un solo mese sono più che raddoppiati, più che quadruplicati rispetto al marzo 2015. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Anche questo, se volete, un tema che potete discutere tra voi, sul quale potete riflettere questa sera, questo di finanziare la gestione comune dei flussi migratori attraverso, per esempio, questo piano italiano che prevede anche un fondo comune per gli eurobond, per finanziare i debiti delle spese degli stati membri per la migrazione, oppure dall'altra parte la Germania che propone una tassa speciale sulla benzina. Anche questo potete commentare, su quale sareste più d'accordo. Ci spostiamo intanto in Ecuador. Sale a 350 morti il bilancio provvisorio del terremoto che ha colpito sabato il paese latinoamericano, un terremoto, vi ricordo, di magnitudo quasi 8. Ci collegheremo poi direttamente con l'Ecuador, con un responsabile di Oxfam e poi anche con un italiano che è lì da diversi anni. E poi in Brasile la Camera approva l'impeachment per la presidente Rousseff, il governo ammette la sconfitta e annuncia poi battaglia al Senato, un colpo duro per il paese che ospiterà ormai a breve le Olimpiadi. Il direttore dell'ISPI Paolo Magri, sentiamolo al microfono di Simone Spezia. Stiamo andando alle Olimpiadi e che seguono i mondiali di 2 anni fa, mondiali che avviarono il ciclo delle proteste a quella fase di 2 anni fa. È succeduta poi una tempesta politica, le elezioni presidenziali che hanno spaccato in due il paese, poi nel frattempo è arrivata la crisi, meno 4% le previsioni sul PIL quest'anno, in ciò un governo che non ha la forza di prendere posizioni forti di riforme, di reazione, come non le avrà il vicepresidente Temer se l'impeachment andasse in porto. È un vicepresidente che dovrà contare su un appoggio di una coalizione ampia, quindi con una forza politica molto limitata. E siamo al referendum sulle trivelle, niente quorum ieri al referendum, ma il comitato per il sì non si ferma. Intanto le opposizioni si preparano domani al voto di sfiducia in Senato chiesto dal Movimento 5 Stelle sulla vicenda petrolio. Il referendum è fallito, ma la questione delle trivelle rimane ancora aperta. Il comitato per il sì insiste sulla linea dura e annuncia che sarà presentata un'interrogazione alla Commissione europea e un ricorso al Ministero dello Sviluppo per chiedere il blocco immediato di 5 concessioni estrattive entro le 12 miglia. Concessioni scadute, mentre la legge in vigore, quella sottoposta al referendum, prevede una proroga solo per quelle in vigore. Intanto resta alta la tensione nel PD dopo l'affondo di Renzi contro quei presidenti di regione che, ha detto, hanno voluto cavalcare a tutti i costi un referendum per esigenze personali. Il riferimento soprattutto a Michele Emiliano, governatore della Puglia, capofila dei promotori della consultazione, il quale chiarisce: nessuna battaglia personale, meritiamo rispetto, così a Mix24. Lui la politica la vede così, è sempre una contesa personale, onestamente. Non è assolutamente la mia idea. All'attacco anche le opposizioni. Per i 5 Stelle il referendum è diventato uno scontro tra bande del PD, mentre Forza Italia guarda già al referendum costituzionale di ottobre. Renato Brunetta. Se si riuscisse a portare al referendum confermativo di ottobre tutti quelli che hanno votato per il referendum sulle trivelle, il no vincerebbe per 60-40. Alessandra Schepisi, Radio 24 e Sole 24 Ore, Roma. A Genova nel frattempo si lavora per fermare la marea nera dopo che si è rotto un oleodotto. Forse il peggio è stato scongiurato. Trattenuta dalle panne sistemate in tempo alla foce del Polcevera, l'onda nera non è finita in mare, ma lungo il torrente, gli altri rivi attraverso i quali il greggio è scivolato per ore dopo la rottura della condotta interrata, si lavora ancora per una bonifica che durerà a lungo. Nel quartiere di Fegino l'odore non è ancora passato e neppure la paura. C'era un ragazzo che è stato il primo che ha dato l'allarme, ha detto che in giro di 2-3 minuti ha sentito come una turbina che fischiava, infatti pensava che fosse caduto un aereo o qualcosa, e dopo 3-4 minuti ha visto questa onda qua di petrolio che veniva giù. Odore e sto torrente che andava giù, ma una cosa... E ora noi chiediamo innanzitutto che bonifichino l'aria immediatamente, perché qui a noi adesso abbiamo bambini e persone anziane soprattutto chiusi in casa come se fossero incarcerati. Nessun rischio per la salute, dice ARPAL. Il comune chiederà i danni, la procura ha aperto un'inchiesta per disastro colposo. La condotta si è rotta in seguito ad una operazione di pompaggio da una nave, dice Iplom, proprietaria dell'oleodotto che ora è sotto sequestro. Andrea Ferro, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Genova. Ed è stato chiuso un tratto della Salerno-Reggio Calabria. La procura parla di difetti strutturali per l'autostrada, dei lavori mai finiti, tanto per cambiare. Per la cronaca, niente gita scolastica senza la compagna autistica, sospesa quindi per ordine del Ministero dell'Istruzione la gita per i ragazzi della scuola media di Legnano, in Lombardia, dopo che nessuna compagna aveva voluto con sé in camera la ragazzina autistica. Si difendono gli altri genitori, dicono: le nostre figlie avevano solo paura che succedesse qualcosa. Per il meteo, nuovo ondata un'ondata di alta pressione su tutto lo stivale, gran caldo al sud, le temperature potrebbero superare in alcuni casi 30 gradi, l'asticella del termometro invece si abbasserà il prossimo fine settimana, previsti temporali al nord, poi man mano sentiremo anche nelle pause qui a effetto notte quali sono le previsioni e durante la settimana capirete se il vostro magari ponte col 25 aprile sarà soleggiato oppure no. E c'è un lutto nel cinema, è morta a 55 anni Carina Huff, ricordate l'attrice che molti ricordavano, quella bionda Susan di Sapore di mare, bionda con gli occhi chiari, l'attrice era rientrata a Londra, sua patria d'origine, dove insegnava letteratura inglese, stava combattendo però da anni una battaglia contro un tumore al seno. E questa sera il cinema italiano aspetta i David di Donatello, che sono gli Oscar del cinema nostrano. Ci collegheremo più tardi per sentire i risultati, se arrivano per tempo, prima che finisca effetto notte, attesa per, lo chiamavano Gigi Robot di Marinetti e Non essere cattivo di Caligari. Per chiudere, lo sport col MotoGP, raggiunto l'accordo con Jorge Lorenzo, lo annuncia Ducati spiegando che il pilota spagnolo disputerà il campionato mondiale MotoGP nel 2017 e nel 2018 in sella alla Ducati Desmo 16 GP del Ducati Team. Bene, direi che per il momento il riassunto della giornata finisce qui, poi comincerò a entrare nel cuore degli argomenti con gli ospiti e vi rinnovo quindi la riflessione di questa sera sulla dichiarazione di Di Maio, che ormai sta emergendo come candidato quasi ufficiale, come premier, come leader del Movimento 5 Stelle. Ha detto: i cittadini non cercano un uomo solo al comando, premieranno partiti che promuovono la democrazia partecipata. E poi l'altro argomento, se volete, sul quale potete commentare sia sulla pagina Facebook di Effetto Notte sia al 349-238-6666, che è il numero per gli sms e per i WhatsApp, le proposte sia dell'Italia che della Germania per finanziare, diciamo, le spese per gestire a livello comune dell'Unione Europea il flusso dei migranti. L'Italia dice, fra le varie misure, questi Eurobond, un fondo insomma per risanare i debiti e dei soldi spesi per l'emergenza immigrazione, mentre oppone a questa proposta il governo tedesco la possibilità di aumentare le tasse sulla benzina. 349-238-6666, pagina Facebook di Effetto Notte, ci ritroviamo a momenti. OneExpress.it, il pallet network italiano che viaggia in Europa, vi presenta Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. Eccoci insieme, Roberta Giordano sempre con voi, mentre arrivano i vostri messaggi o al numero 349-238-6666, che è il numero per gli sms e WhatsApp, e anche come sempre sulla pagina Facebook di Effetto Notte, che è lì per voi giorno e notte. E gli argomenti, se volete, questa sera sono due: una dichiarazione di Di Maio del Movimento 5 Stelle, che ancora come venerdì dice: se mi votano, se gli attivisti mi votano, insomma non mi tirerò indietro come candidato premier, come leader del Movimento 5 Stelle. Ma dall'altra dice: i cittadini non vogliono un uomo solo al comando, vogliono la democrazia partecipata. Come commentate questa dichiarazione? E anche andando invece su oggi il Consiglio dei Ministri degli Esteri a Lussemburgo, l'Italia ha proposto questi Eurobond per finanziare i debiti e anche finanziare i paesi terzi che aiutano a frenare il flusso dei migranti, mentre la Germania propone di alzare le tasse sulla benzina. Che ne pensate? 349-238-6666, pagina Facebook. Maurizia su Di Maio dice: va bene il pluralismo, basta che al momento di fare votare le leggi si mettano d'accordo, perché la maggior parte delle volte troppe teste che comandano portano all'immobilismo. Roberto dice: sì, in Italia ci vorrebbe una persona con grande personalità e carisma, con molti poteri, per cercare di risollevare e soprattutto di sradicare l'enorme corruzione che perseguita il nostro bel paese, eccetera eccetera. Alessandro: la democrazia partecipata è un'utopia, gli stati hanno ormai dimensioni troppo grandi, per non dire della perdita di sovranità verso l'Unione Europea e organi internazionali. Anche l'uso di internet è uno dei tanti palliativi. Il Movimento 5 Stelle intende sostituire l'attuale oligarchia con la propria. Lui dice che oligarchia resta. Tra pochissimo cominciamo allora ad affrontare i vari argomenti. Voi continuate con i vostri messaggi. Vi ricordo però prima di tutto quali sono le notizie più importanti della giornata. Nuova ecatombe nel Mediterraneo, si parla di 200 somali annegati, ma è una notizia ancora da confermare. E intanto sì dell'Unione Europea alla proposta dell'Italia, ma è scontro con Berlino, vi dicevo appunto, sugli Eurobond, anziché Eurobond che l'Unione Europea ha accolto abbastanza favorevolmente come idea, mentre la Germania chiede di tassare la benzina. I comitati no-triv in Italia fanno ricorso dopo il referendum di ieri, nel PD lite con Emiliano, governatore della Puglia, intanto uno sversamento di greggio a Genova, l'onda nera dal fiume va verso il mare. Esplosione su un bus di linea a Gerusalemme, almeno 20 feriti, 2 sarebbero gravi, il mezzo comunque era vuoto, le cause sono ancora incerte, anche se il sindaco di Gerusalemme parla di attentato. Niente accordo a Doha, crolla il prezzo del petrolio, le borse europee recuperano le perdite, Milano in rialzo. Brasile, la Camera approva l'impeachment nei confronti della Presidente Rousseff, il governo ammette questa sconfitta, però annuncia che sarà battaglia al Senato. E poi per questa sera per il cinema italiano, attesa per i David di Donatello. E parliamo di immigrazione oggi, mentre i ministri degli esteri, vi dicevo, dell'Unione si sono riuniti a Lussemburgo per discutere di possibili misure comuni legate alla gestione comune appunto dell'emergenza immigrazione, è girata questa notizia che arrivava dall'Egitto di una nuova strage di migranti in mare. L'Egitto parlava di circa 400 persone e poi Gentiloni, il nostro ministro degli esteri, ha invitato alla prudenza dicendo stiamo cercando di avere ulteriori notizie dalle autorità egiziane, e poi in serata invece la notizia secondo la quale sarebbero 200 i migranti annegati nel naufragio nel Mediterraneo, questa volta a riferirlo è il Ministero dell'Informazione somalo. Chiedo allora a Flavio Di Giacomo, che saluta, buonasera Di Giacomo. Buonasera. Portavoce dell'OIM, l'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni, se Di Giacomo avete delle conferme, qualche notizia in più? Assolutamente no, non ci sono nessuna conferma di questo naufragio. L'unica notizia appunto è quella di questo report della BBC di questa mattina, che è stato ripreso da tutti quanti i media. Noi abbiamo cercato di informarsi sia presso le autorità egiziane sia presso le autorità greche per capire se c'erano dei superstiti di un naufragio. Al momento non abbiamo avuto nessuna conferma, quindi non possiamo assolutamente confermare questo naufragio. È una cosa un po' curiosa, no? Non so come definirla. È abbastanza curiosa. Devo dire che in passato è già capitato che ci sono state notizie di naufragi e le notizie provenivano dai paesi d'origine, perché spesso erano i familiari che, non avendo notizie dei loro figli, nipoti, eccetera, che erano in viaggio da giorni, a quel punto si preoccupavano e su Facebook lanciavano post in cui dicevano che forse erano morti via mare. Poi questi casi sono stati smentiti. Quindi finché non abbiamo una conferma da parte di qualche guardia costiera che c'è stato un naufragio o comunque ci sono stati dei soccorsi, al momento non possiamo confermarla. Finché sono voci che arrivano dai paesi d'origine, stare ancora cauto. Ecco, speriamo che appunto non siano notizie fondate. Tra l'altro c'è da dire, aggiornandosi invece col numero di migranti che man mano arrivano, che Frontex, l'Agenzia Europea per la Protezione dei Confini, dice che in Italia sono arrivati a marzo 9.600 migranti, sono sbarcati sulle coste italiane, a fronte invece di febbraio ne sono sbarcati 2.283, quindi quasi tre volte. Allora, nei primi tre mesi dell'anno abbiamo avuto sicuramente un aumento degli arrivi, soprattutto a marzo, quest'anno 9.600 rispetto ai 2.000 dell'anno scorso, sempre a marzo. Ad aprile però la differenza con l'anno scorso si sta assottigliando, perché siamo arrivati a 6.000 arrivi e l'anno scorso al 30 aprile erano stati 16.000. Quindi al momento abbiamo registrato un totale di 25.260 arrivi quest'anno, l'anno scorso al 30 aprile erano 26.000, quindi di fatto siamo in linea con l'anno scorso. Poi ci saranno 2-3.000 di più o di meno, però tendenzialmente quello che sembrava un grande aumento si sta ridimensionando rispetto all'anno scorso. Mi dice solo un'ultima cosa, Flavio Di Giacomo, lei cosa ne pensa di queste proposte arrivate al Consiglio dei Ministri degli Esteri a Lussemburgo, da una parte l'Italia con gli Eurobond, dall'altra la Germania che parla di aumento della tassazione sulla benzina? quello che è interessante, a parte dove trovare i fondi, la tassazione, è quello di cominciare ad affrontare il fenomeno dell'immigrazione con politiche che siano effettivamente più a lungo termine, perché siamo stati troppo tempo, è stato affrontato per troppo tempo il fenomeno dell'immigrazione come un'emergenza. Un'emergenza non è, i flussi migratori continueranno anche negli anni a venire per motivi, oltre alle guerre e alle persecuzioni ai regimi, ma per motivi prettamente demografici di fatto. Quindi qualcosa, anzi, l'immigrazione è un qualcosa di cui l'Europa avrà bisogno nei prossimi 30 anni, visto che avremo il 25% in meno di persone in età lavorativa nel nostro continente. L'immigrazione quindi va gestita, e queste politiche che in realtà appunto affrontano la questione con strategie a lungo termine, quindi con collaborazione con i paesi d'origine, con i paesi di transito, con l'apertura di canali legali di entrata, ma anche eventualmente con eventuali chiusure eventuali entrate irregolari, insomma, quello che bisogna fare è facilitare i canali legali e bloccare i canali irregolari. Queste sono politiche a lungo termine che ci vorranno non 3 mesi o 6 mesi, ma 5 o 10 anni, però questo è l'atteggiamento che bisogna avere. Grazie Flavio Di Giacomo dell'OIM, grazie, buon lavoro. Grazie. Intanto continuano ad arrivare i vostri messaggi anche sui temi politici. Fulvia: penso che la massa critica della cittadinanza voglia un uomo solo al comando, una plebaglia ignorante da sempre suddita delle caste parassite, preferisce piangersi addosso piuttosto che emanciparsi, per non parlare dei cittadini stranieri a cui viene concessa la cittadinanza senza che abbiano studiato la nostra Costituzione, che sono qui principalmente per arricchirsi. Beh, insomma, dipende, pare questo grande arricchimento, poi dipende un po' dalle attività e anche di che tipo. Però invece un altro messaggio molto critico, immagino, nei confronti di Renzi: se Pinocchio andasse fuori dalle scatole prima di ottobre sarebbe meglio. A proposito di nuovo del fatto che al TG1 questa sera è tornato sulla questione del referendum costituzionale di ottobre, dicendo ancora una volta, se dovesse andare male, sì, dice, adesso corregge un po' il tiro, dice non è un referendum su di me, però se proprio, insomma, dovesse andare male me ne andrei a casa. E poi Silvia, che ringrazio moltissimo, il tuo fantastico programma Veste la sera di tutti noi ascoltatori, come potrò, avverte tutti Silvia, amici, conoscenti, parenti, di ascoltare Effetto Notte, come non apprezzare un messaggio di questo tipo. Adesso però parliamo della politica nostrana con Barbara Fiammeri, commentatrice politica del Sole 24 Ore. Ciao Barbara. Ciao a tutti, buonasera. Allora, ieri c'è stato questo referendum, non ha raggiunto il quorum del 50% più uno degli aventi diritto, quindi è fallito, e sentiamo cosa dice Renzi. E lì, ce l'abbiamo. Un referendum che si poteva evitare, abbiamo cercato di evitare per risparmiare oltre 300 milioni di euro degli italiani, ma che è stato voluto tenacemente e pervicacemente non per discutere di energia, ma per esigenze di conta interna da parte di qualcuno. Allora Barbara, poi ti farò sentire altri file se facciamo in tempo, però vogliamo dire almeno su questo punto che sicuramente chi ha sostenuto il sì ha fallito, avendo raggiunto soltanto il 31,8%, però su questa cosa del risparmio dei 300 milioni in realtà si poteva fare ugualmente il referendum accorpandolo alle elezioni amministrative del 5 giugno e quei soldi sarebbero serviti complessivamente per tutte le votazioni. Avendolo voluto scorporare dal voto del 5 giugno, è chiaro che è stata una spesa a sé stante, però non credo che sia stato voluto da chi ha sostenuto il referendum, al di là che sia stato legittimo votare sì, votare no, l'astensione. Che dici? Ma dunque, su questa storia dei 300 milioni devo dire, io ho sempre difficoltà a parlare di queste cose perché veramente mi sembrano un po' ridicole, nel senso che tutta questa storia poi sui costi, se in gioco c'è la democrazia, come dire, il costo non conta. Direi però un'altra cosa che è vera invece, e ovvero che questo referendum, a mio parere, aveva ben poco a che fare con le trivelle, nel senso che se noi andiamo a vedere i dati scopriremo che in alcune città, guarda caso, dove magari i grillini sono particolarmente forti, come ad esempio Torino e Roma, nonostante, come dire, le regioni non fossero interessate dal referendum trivelle. Però è un problema che riguardava tutta l'Italia, no? Il nostro mare, al di là di come capito. Si votava. Certo, certo, però non è, come dire, questo referendum è stato, ha assunto un come hanno detto tra l'altro moltissime persone, anche commentatori, che hanno detto: prima non sarei andata a votare, ma visto che Renzi l'ha messa così, vado a votare, no? Allora, il Premier ha messo il referendum, ha sfidato i referendari, e quindi è diventata una sorta di campagna contro Renzi. E il merito, anche se noi andiamo a vedere, se riprendiamo i giornali delle settimane scorse, c'era l'inchiesta di Potenza sulla Guidi e il resto del quartierino, e Renzi contro tutti. Quindi le trivelle in sé, il merito di questa vicenda si è un po' perso per strada. Tra l'altro non è la prima volta che questo avviene nei referendum, ma che hanno perso quella caratteristica che avevano quando, come dire, l'arma del referendum, i grandi referendum, il divorzio l'aborto. Allora, quei referendum lì avevano una valenza, cioè si discuteva di quello, cioè del merito. Adesso mi sembra che si discuta d'altro in generale sui referendum, in questo poi in particolare, perché il Premier stesso, come l'ha fatto, e tant'è che adesso sta cercando di correggere la rotta, non solo sul referendum costituzionale, dicendo non è un referendum su di me, ma è un referendum, no, tutto il discorso che sta ripetendo, ma anche sulle amministrative, perché si è reso conto che il fronte referendario, e quando parlo di fronte referendario non mi riferisco solo a chi ha votato sì, ma anche a chi ha votato no, perché chi è andato a votare, a mio parere, è andato a votare per votare anzitutto contro Matteo Renzi. Quindi, lo ricordiamo, scusa Barbara Fiammeri, che hanno votato 15.806.788 cittadini, il 31,19%, l'85%, quindi poco meno di 13 milioni e mezzo, ha votato sì, giusto per dare un ma non voto. Non sono pochi, perché siccome alle amministrative, che è la prima, no? La prima verifica, nei comuni, diciamo, più importanti, parlo di Milano, di Torino, di Roma, di Napoli, si andrà al ballottaggio quasi certamente, insomma tutti danno per scontati i ballottaggi. Quel fronte che al primo turno sarà disunito, perché ognuno presenterà il proprio candidato e la propria lista, al ballottaggio potrebbe ricompattarsi. E già si è visto, no? Per esempio, cosa voteranno a Roma? A Roma calcola che hanno votato al referendum 758.000, mi sono andata a vedere i dati, 758.000 elettori, non è un numero esorbitante perché Roma conta 2.600.000 elettori, però sono 100.000 in più di quanto hanno eletto Marino. Già, lo diceva Emiliano, anche più di quelli che hanno votato me in Puglia e più di quelli che hanno votato il PD. Ma lui faceva riferimento alla regione, sì, no? Sì. Parliamo solo di Roma. Roma sono praticamente, Marino è stato eletto con 650.000 voti, il fronte del referendum, parlo di sì e di no, è stato superiore, assieme, sì, certo. 758. Quindi è evidente che se quel fronte si compatta alle elezioni potrebbe essere qualche sorpresa. Se il candidato viene vissuto come un candidato renziano del Partito della Nazione, quel fronte si ricompatta e si perde. Diciamo che sono un po' le conseguenze a volte di personalizzare un po' troppo. Barbara, noi abbiamo veramente pochissimi secondi, dimmi solo che succederà domani nel voto della mozione di sfiducia, poi ci dobbiamo lasciare. Nulla, non succede nulla, perché non succede nulla, i voti sono non scontati. Ci sono i voti. No, non ci sono i voti. Questa fiducia arriva dopo la debacle referendaria, per cui non succede nulla. Benissimo, ci riaggiorniamo nel caso. Grazie Barbara Fiammeri. Buonasera. Ciao Barbara, buona serata. Noi dobbiamo assolutamente fare una pausa di creazione molto velocemente. Giancarlo, a proposito della dichiarazione di Maio sul fatto che i cittadini preferiscono non un uomo al comando ma la democrazia partecipata, dice: affermazione più che normale, persino banale in democrazia, l'uomo solo al comando appartiene a sistemi allergici alla vera democrazia. Ci sentiamo dopo, tra poco. Effetto notte, le notizie in 60 minuti. E se state ascoltando Effetto Notte siete al posto giusto nel momento giusto con la giusta conduttrice, anche Roberta Giordano con voi. I vostri messaggi continuano ad arrivare, Enrico per esempio al 349-238-6666, c'è anche la pagina Facebook di Effetto Notte, dice: la tassa sulla benzina non farebbe che rendere ancora più malvista l'accoglienza da parte dei cittadini europei dei migranti, è uno strumento in più ai movimenti politici che si oppongono. Vi ricordo tra le notizie più importanti di questa sera: in Medio Oriente torna la violenza, Gerusalemme esplosione su un bus di linea, il sindaco dice è stata una bomba, 15 feriti, 2 gravi. Immigrazione da Bruxelles, primo sì alla Migration Compact, ma è braccio di ferro tra Roma e Berlino. Nel Mediterraneo forse 200 le vittime un anno dopo la strage di Lampedusa, ma non è una notizia confermata. Ecuador sale a 350 il bilancio provvisorio dei morti del terremoto, ne parleremo tra pochissimo. Il referendum sulle trivelle, dopo il mancato raggiungimento del quorum, i comitati per il sì non si arrendono, concessioni già illegittime, dicono. E adesso spostiamoci in Ecuador, dove sapete che sabato c'è stato un terribile terremoto, il più forte mai registrato nel paese, che ha sfiorato la magnitudo 8, lasciando devastazione, morti e anche molti dispersi. Il bilancio per il momento, secondo il Ministero della Sicurezza ecuadoriano, è di almeno 350 morti e circa 2000 feriti, e l'epicentro è stato registrato sulla costa pacifica a 170 km dalla capitale Quito. Il vicepresidente dell'Ecuador, Jorge Glass, ha detto che le vittime sono state segnalate nelle città di Manta, Porto Viejo e Guayaquil, e su richiesta dell'ONU l'Unione Europea intanto ha attivato il sistema di protezione civile europeo per fornire tutto il possibile aiuto all'Ecuador. I vari paesi adesso si organizzeranno. Nel frattempo è per fortuna anche scattata questa gara di solidarietà per aiutare la popolazione colpita dal terremoto, quindi Caritas in campo, Caritas Italia ha già stanziato 100.000 euro e intanto Oxfam, che è una delle più importanti confederazioni internazionali specializzate in aiuto umanitario e progetti di sviluppo, ha annunciato di essere al lavoro sul campo con una squadra per valutare l'entità dei danni e anche capire che tipo di interventi fare. Allora coinvolgo direttamente Andrea Cianferoni, responsabile Oxfam proprio in Ecuador, è lì che si trova. Andrea, quindi quale valutazione intanto avete fatto, state facendo dei danni e anche che tipo di interventi? In questo momento è un po' anche difficile fare una valutazione precisa perché i danni sono veramente ingenti, dove ci muoviamo veramente si vedono come si possono vedere un po' nelle foto che sono circolate, soprattutto nei centri abitati, per questo cerchiamo di muoverci nelle zone colpite, ora con uno staff di Oxfam che è arrivato nel paese nei giorni scorsi, per cercare di valutare in coordinazione con le istituzioni del governo dove operare e cercare di capire cosa è necessario fare in questo momento. Certo, siete in accordo col governo per capire anche che tipo di interventi fare, come dicevi. Intanto saluto anche Luigi Passano, che è un italiano che vive a Guayaquil ed è presidente della Fundación de Asistencia Social Liguri e nel Mondo, sezione Ecuador, vero? Buonasera Passano. Buonasera a tutti. Lei vive lì in Ecuador, a Guayaquil, da diversi anni, no? Da molti anni. Sono circa 30 anni che io risiedo, diciamo, in Ecuador. Vado e vengo in Italia perché anche in Italia ho la famiglia. Però sono 30 anni che, diciamo, lavoro qui in Ecuador. È praticamente la sua seconda patria, Passano. Sì, seconda patria. Tra l'altro c'è un rapporto particolare tra Guayaquil e l'Italia, Genova in particolare, perché c'è un'ampia comunità di ecuadoriani a Genova, no? Mi pare che sia iniziata anni fa questa cosa con tanti emigranti, 30.000 ecuadoriani che sono arrivati a Genova, in Liguria, e tante donne che hanno fatto le badanti, quindi c'è un legame stretto tra le due città, vero Passano? Sono, diciamo, da una crisi economica del 2000 che sono immigrati molti ecuadoriani che sono arrivati a Genova, anche perché diciamo che qui gli italiani sono quasi tutti discendenti dei Liguri, specialmente della Val Fontana Buona, Chiavari, Lavagna. Quindi è come se ci fosse un gemellaggio di lunga data tra queste due città. Senta, qual è la situazione lì intanto a Guayaquil, Luigi Passano? Ma guardi, qua a Guayaquil diciamo che a parte dei ponti che sono caduti per la, insomma, una costruzione, mi sembra un po' tipo quella che è avvenuta a Parma quando c'è stato il terremoto in quelle zone, certe case che mal costruite che sono venute giù, non ci sono tanti diciamo morti, sono 4 morti che sono qui a Guayaquil, però le zone costiere sono veramente distrutte, si arriva anche difficilmente perché le strade si sono diciamo, si sono aperte, sono andate giù, non si può transitare, quindi gli aiuti umanitari sono difficili per poter arrivare, manca acqua, alimenti, a parte che la gente ha perso le case, quindi dormono per strada, nei campi riuniti, insomma è disastroso, veramente qualcosa che... Passano, lei invece sta bene, il suo ristorante è anche a posto, mi sembra? 5 anni fa ho costruito questo con le indicazioni, diciamo, italiane, per cui in una zona sismica bisogna avere dei provvedimenti, avere delle, una costruzione un po' dettagliata. Sì. Certo. Cianferoni, quindi hai sentito la situazione in particolare, ma voi siete naturalmente sul campo e quindi gli interventi più immediati, chiaramente capiamo la situazione, diceva lo stesso Luigi Passano che le strade interrotte, immaginiamo la situazione di difficile, no? per intervenire. Pensi Andrea che il bilancio per i morti si possa fermare qui o ci saranno persone? Purtroppo il bilancio dei morti è destinato a crescere anche di molto. Siamo arrivati a 350, ieri erano 270 e anche dalle parole del Presidente della Repubblica purtroppo questo numero sarà destinato a crescere. Ci sono tante zone che ancora sono quasi irraggiungibili, dove non sono quasi arrivati gli aiuti, e gli unici aiuti sono le stesse persone che vivono nella zona cercando di aiutare i propri vicini. Le necessità, la provincia di Manabí è l'80% ancora senza luce, senza accesso a acqua potabile, per cui le necessità sono queste. In questo momento si sta cercando ancora di salvare qualche vita e fortunatamente ci sono notizie ancora di alcune zone dove stanno riuscendo dopo quasi 48 ore persone sotto le macerie a riscattarle vive. C'è ancora una luce di speranza, però la situazione è veramente, veramente tragica. Città costiere come Pedernales, oltre l'80% degli edifici sono caduti. Dalle immagini che si vedono fatte con i droni sembra uno scenario veramente di guerra, no? Una città che si è trasformata in macerie. Andrea Cianferoni, qui non resta che augurarvi buon lavoro, insomma, che sarà duro naturalmente. Sì. Ma... Grazie. E chiediamo a tutti di appoggiare. Oxfam ha partito una campagna di raccolta fondi, la potete appoggiare sulla pagina web di oxfamitalia.org. Oxfamitalia.org. Sì. Oxfamitalia.org. E la campagna solidaria è iniziata in Ecuador, da tutte le province stanno arrivando aiuti, però le necessità veramente stanno superando le capacità, certo, di risposta. Quindi importante aiutare problema. Anche da privati cittadini. Grazie Andrea Cianferoni di Oxfam e grazie a Luigi Passano. Grazie della sua testimonianza. Grazie a voi. Effetto notte, le notizie in 60 minuti. Notizie che vi ricordo in pochi secondi, tra poco, mentre Giorgio, tra la pagina Facebook di Effetto Notte, il 349-238-6666, scrive a proposito della proposta di Berlino: tassa sulla benzina, un buon sistema per fare dei migranti un nemico. Questa è una delle notizie principali a proposito dell'immigrazione, infatti da Bruxelles, primo sì al Migration Compact proposto dall'Italia, ma è braccio di ferro tra Roma e Berlino. Nel Mediterraneo forse 200 le vittime un anno dopo la strage di Lampedusa, ma la notizia non è ancora confermata. Medio Oriente, torna la violenza, Gerusalemme, esplosione su un bus di linea, il sindaco dice è stata una bomba, 15 feriti, 2 dei quali gravi. Ecuador, ne abbiamo appena parlato, sarà 350 morti il bilancio provvisorio del terremoto. Il referendum sulle trivelle, dopo il mancato raggiungimento del quorum, i comitati per il sì non si arrendono, fanno un nuovo ricorso e dicono le concessioni sono già illegittime. In Brasile la Camera approva l'impeachment per la presidente Rousseff e il governo ammette la sconfitta e annuncia battaglia al Senato. Cinema italiano stasera, i David di Donatello, gli Oscar del cinema nostrano. Youzone. Incontro con gli europarlamentari. Nome: Elena. Cognome: Gentile. Età: 62 anni, ma non li dimostro. Nata: Cerignola, la città di Giuseppe Di Vittorio. Eletta in circoscrizione sud. Con quanti voti? Una manciata di voti a 150.000. Partito politico: Partito Democratico. Gruppo politico: Socialisti e Democratici. Segni particolari: qualche chilo in più, ma tanta voglia di fare e di fare bene. Quante lingue parla? La mia, il mio dialetto e l'inglese, così e così. Competenze europee in 10 parole: ambiente, sicurezza alimentare, sanità pubblica, occupazione, lavoro, politiche di inclusione sociale, misure di contrasto alla povertà, un grande interesse per la promozione dell'economia sociale. Benvenuta nella U Zone di Radio 24 da Silvia Bernardi. La Francia, come l'Inghilterra e il Portogallo, ha lanciato il contratto a impatto sociale. Che cos'è? È un nuovo strumento nella cassetta degli attrezzi per costruire sui territori politiche vere di contrasto al disagio, alla povertà, in favore dei soggetti più deboli e più vulnerabili. Si apre al privato in un percorso intelligente ed innovativo. A fronte dei risultati, l'ente pubblico potrà, tra virgolette, risarcire il privato che ha scommesso su, appunto, progetti che abbiano per obiettivo una buona politica di inclusione sociale, di promozione delle persone più fragili. L'Italia è il paese europeo con il tasso più basso di popolazione attiva in ambito lavorativo e detiene anche il record per il tasso più elevato di scoraggiati, 14,4% della forza lavoro. L'Europa ci può aiutare? Ma l'Europa è fortemente impegnata nel promuovere occupazione dentro una cornice di nuova economia sostenibile ed inclusiva. Partendo da uno strumento che già viene utilizzato negli Stati membri, penso a Garanzia Giovani, che però non è riuscito a produrre gli effetti sperati e desiderati. L'Unione Europea ora obbliga le multinazionali a rendere pubbliche le tasse pagate. Vittoria della trasparenza anche per le grandi aziende? Ah, indubbiamente, questo è stato uno degli appuntamenti più importanti di questo primo scorcio di legislatura. La trasparenza è sicuramente una leva importante per lo sviluppo, perché evita anche una sorta di dumping sociale. Cosa voleva fare da piccola? Ma io ho sempre voluto fare il medico e ci sono riuscita. Sono pediatra, conservo un ricordo dolcissimo dei tanti bambini e delle tante bambine che ho visto nascere e che ho accompagnato nel percorso di crescita. U-Zone, incontro con gli europarlamentari. In collaborazione con Euronet Plus. E ora volgiamoci verso il cinema, i nostri Davide Donatello, i nostri Oscar per il cinema 2016, c'è il nostro Boris Sollazzo, critico cinematografico di Giornalettismo, lì a Roma a seguire. Ciao Boris. Ciao, ciao a tutti, mi perdonerete il rumore, ma siamo proprio in mezzo. Sei nel vivo. Mi pare che già siano usciti i premi per, cioè, i due vincenti, vittoriosi per gli attori non protagonisti, attrice e attore, vero? Sì, Boris? Assolutamente sì, e per ora siamo in presenza di una quasi un plane, lo chiamavano Ciclopo, che ha vinto 4 David su 6, particolarmente sorprendente quella della migliore attrice non protagonista, che è quello di Antonia Truppo, che è, diciamo, la cattiva, lo chiamavano Ciclopo, insieme a Luca Marinelli, che ha vinto invece l'attore non protagonista. Quindi possiamo dire che già c'è un trionfo in atto, che è quello di Lo chiamavano Gigrobò, che è arrivato per ultimo, ma ha conquistato i cuori di tutti. Io senti, Boris, che vogliamo dire che la cosa particolare è che Luca Marinelli, che ha vinto come attore non protagonista in Gigrobò, è anche l'attore dell'altro film che, insieme a Gigrobò, è quello che se la sta giocando questa sera, no? Esattamente, esattamente. Come poi, tra l'altro, Alessandro Borghi, che è attore di Suburra, anche lui è doppia nomination, attore di Suburra, ma attore anche di Non essere cattivo, che è l'altro. Ecco, Non essere cattivo, sì. È l'altra sorpresa che si attende. Mi piace però ricordare una cosa: forse il premio più bello è stato quello a Paolo Genovese per la miglior sceneggiatura. Non tanto per Perfetti Sconosciuti, che è pure un bellissimo film, ma perché Paolo Genovese l'ha dedicato alla verità, attaccando l'adesivo giallo, La verità per Giulio, dedicato a Regeni, sopra il David di Donatello. Questo è bello. Lo stanno portando in tantissimi, ma Claudio Valerio Mastandrea, Fabrizio Cifuni, Stefano Accorsi. Davvero una mobilitazione molto bella del cinema italiano. Sì, infatti lo vedevo, questi adesivi gialli per Regeni, e tu hai citato anche i vari attori protagonisti di questa sera che lo stanno portando. Senti, per come attore e attrice abbiamo ancora pochi secondi, c'è chi è lì sul che sta per salire sul podio? Siamo ancora in attesa della premiazione, non è escluso che, insomma, Borghi e Marinelli se la giochino ancora fino in fondo, perché chiaramente sono i due attori del momento. Bisogna vedere se si è voluto fare un unplane con lo chiamano Cicropo o se oppure si no. Distribuire i vari premi. Boris Sollazzo, ti ringrazio, buon divertimento a te che sei lì, con queste musiche un po' stridenti per noi, per il nostro audio. Noi ci risentiamo giusto alle 22.